silenzio, poi da verso noi s'avanza. Non mentire, onde

me chiedi quanto ti obbrami, nulla te negato sarai tal te. Lo giuro per la corona mia e il sacro nome. Angeli in pria che innanzi a te si entratti prigioniere, thank you. sacri numi per lo splendor della tua corona compier giurasti il voto mio giurai ebbene a te dei prigionieri etiopi ti addomando e libertà Ascolta re, oppure c'hai l'eroe, saggia consiglia, ascolta, son nemice prodi sarà, la vendetta d'ore il cor, a mio Questa speranza ai vinti nulla sfugge al mio sguardo. D'amor ti struggi per Adames, Metana, il attendi, e Faraon la figlia e tua rivale, razza infame, aborrita, e a noi fatale. Suo poter lo stondi, un d'amoroso lo fella. Il poter di lei, no, sono bravi la possente. Rivolto vincerai e patria e trono e amor tutto tu avrai. Rivedrai le foreste imbalsamate, le fresche valli, i nostri templi d'or. Rivedrò le foreste imbalsamate, le fresche valli, i nostri templi d'or. Sposa felice a lui che amasti tanto, tripudi immensi potrai gioir. Un giorno solo io si luce in canto, le cose, i tempi, e noi lo farò, lassi in cerchi, gli energi radite, padri, vecchi, fanciulli, lei crucitò. Ogni giorno, quei fausti giorni, ogni quei monti, si levano gli estinti, già dittano essi e grida.